Al 1° maggio, qua a Bologna, la piazza a un certo punto è esplosa durante il concerto ascoltando i 100 passi. Era un pubblico di giovani, quindi nati ben dopo la morte di Peppino Impastato, eppure quella canzone gli risuonava fortissima. Ecco, partiamo subito da qua. Come mai, secondo lei? Allora, intanto devo ammettere che, nonostante mi sia capitato diverse volte di ascoltare questa canzone intonata, soprattutto in queste circostanze, in queste manifestazioni, è sempre un'emozione fortissima che, come dire, mi inorgoglisce per la storia di cui faccio parte e per il cognome che porto. Io credo che Peppino oggi sia veramente un punto di riferimento incredibilmente soprattutto per i giovani e anche per i giovanissimi, e credo che lui abbia veramente formato, la sua storia abbia formato un po' ideologicamente più generazioni, nonostante appunto Peppino sia stato ucciso 44 anni fa. Però io credo che questa attrazione che Peppino riesce a, come dire, a, su cui che riesce a coinvolgere in qualche modo soprattutto i giovani, è legata al fatto che Peppino stesso era un giovane. A volte si dimentica di questa realtà, ma Peppino era un trentenne, era un ragazzo, era soltanto un ragazzo che parlava ai ragazzi con dei loro problemi, con il loro linguaggio. Credo che incredibilmente continui a farlo oggi, anche perché le istanze che portava avanti Peppino, che sono state alla base delle sue lotte, sono, ahimè, devo ammettere, come dire, istanze che si possono ritenere ancora tremendamente attuali. Le va di riepilogarci un po' queste istanze? Perché Peppino parlava di mafia, ma non soltanto di mafia. Allora, la lotta alla mafia di Peppino, che è sicuramente il motivo per cui è maggiormente conosciuto, è sicuramente è stata la causa poi che ha portato alla sua uccisione da parte della mafia, è stata ovviamente il suo contrasto alla mafia. Però la lotta alla mafia di Peppino si inserisce indubbiamente in un suo percorso di militanza che inizia giovanissimo e che aveva alla base degli ideali. Senza le sue idee Peppino non avrebbe compiuto sicuramente quella rottura che tanti definiscono storica con la sua famiglia d'appartenenza. Peppino credeva nel valore dell'uguaglianza, della giustizia sociale. Il suo era un impegno politico, un impegno sociale che metteva al centro l'uomo, che metteva al centro i diritti dell'uomo. La mafia era, come dire, la negazione di questi diritti a lui più prossima. Era appunto imprescindibile la lotta alla mafia dal suo impegno politico e dalle sue idee. Ma Peppino lottava per lo sfruttamento dei lavoratori, Peppino lottava per contro la devastazione del territorio. Già negli anni 70 il suo era un pensiero ecologista, un pensiero antiimperialista, antifascista, insomma abbraccia veramente tante istanze, come dicevo, e tante cause che oggi, in cui oggi si rivedono anche i giovani. E quando va a parlare di suo zio col pubblico, in particolare appunto con i giovani, manteniamo questo focus, conoscono, comprendono il contesto dell'epoca, la militanza politica sua, gli anni di piombo? Allora, questa è, insomma, in qualche modo quando io parlo di Peppino cerco di raccontare il contesto storico, perché è determinante anche per capire l'importanza di quelle lotte. Sicuramente l'impegno anche culturale di Peppino negli anni 70 ha avuto un peso diverso rispetto ad oggi. Quando Peppino crea per esempio Musica e Cultura, lui porta avanti una vera e propria rivoluzione culturale nel paese, con l'idea che la cultura, la musica, l'arte fossero strumenti di emancipazione dalla cultura mafiosa dominante. Per cui è assolutamente necessario capire il contesto storico, ancora di più quello della mafia. La mafia di allora non era la mafia di ora, la mafia che per quanto ancora presente, pericolosa e radicata, non è percepibile come quella degli anni 70, degli anni 80, in cui era come dire, assolutamente dominante. E in qualsiasi sfera, diciamo, pubblica, in qualche modo. Mi tolga la curiosità, che cosa le chiedono quando va a parlare di Peppino? Allora, la prima domanda che mi chiedono, quella che in genere è la domanda di rito, è cosa è cambiato a Cinisi, se è cambiato qualcosa a Cinisi. E in genere rispondo che tante cose sono cambiate, che sicuramente la mafia è cambiata a Cinisi come è cambiata nel resto della Sicilia, anche insomma su tutto il territorio nazionale, ma è che la figura di Peppino ha sicuramente avuto delle resistenze a Cinisi, quindi se Peppino in passato è oggi un simbolo della lotta contro la mafia, praticamente ovunque, oggi ancora ci sono delle resistenze che però nel corso degli anni, devo dire, si stanno abbattendo. Questa è la domanda di rito. Poi le domande, poi in genere dipende dalla fascia di età. I bambini mi fanno le domande più difficili, quelle più intime, quelle più, come dire, più personali. Ad esempio? Per esempio, cosa provo? Se ho mai pensato di voler conoscere, se mi sarebbe piaciuto conoscere mio zio, insomma, se l'ho sognato, mi hanno chiesto, ma se ho mai sognato Peppino, mi ha chiesto un bambino una volta. E poi vabbè, i bambini sono, diciamo, le persone più straordinarie dal punto di vista della curiosità. Però in genere, insomma, le domande sono legate anche alla sfera più del Peppino più ragazzo, ecco. Allora la porto un po' sulla sua storia. C'è un altro personaggio che di solito colpisce quando si va a studiare questa storia, che è il personaggio della madre, cioè sua nonna. Lei l'ha conosciuta? Sì. Io ho avuto la fortuna di conoscere e crescere con mia nonna, e non avendo avuto la fortuna invece di conoscere Peppino, perché sono nata 9 anni dopo il suo assassinio. Però mia nonna è scomparsa quando io avevo 17 anni, e ho avuto il grande privilegio di crescerle accanto, ed è stata lei che mi ha veramente permesso di sentire familiare Peppino, di sentirmi parte di questa storia, anche se non ho vissuto sulla mia pelle la tragedia della morte di Peppino, nonostante comunque abbia influito e condizionato totalmente la mia vita, le mie scelte. Però mia nonna mi ha è il motivo per cui ho deciso di raccogliere il testimone oggi e continuare il suo percorso di impegno e di memoria, perché insomma mi ha, come dire, è la persona che ha più di tutti sviluppato in me questo grande senso d'orgoglio nei confronti della storia di Peppino. E adesso unisco un po' le ultime due domande, no? I bambini, la figura della madre, perché adesso anche lei è madre. E sui figli sì. Ha parlato, come parla di Peppino? Allora, io per esempio non ricordo quando mi è stata raccontata la storia di Peppino per la prima volta, quindi non riesco a ricordare i termini e le modalità con cui in qualche modo mi sono venuta a conoscenza della storia di Peppino, perché proprio ci sono cresciuta dentro. E credo che un po' è quello che sta succedendo ai miei figli. Io adesso ho un bambino che ha 8 anni e uno che ne ha 5. Ovviamente sono loro stanno crescendo dentro Casa Memoria, quindi dentro la casa di Pessino, a contatto con le persone che vengono a incontrarci, conoscono la storia, si rendono conto dell'importanza di questa storia, a volte si stupiscono di quante persone vengono a trovarci. Io provo a raccontarglielo, ricordo per esempio mio figlio, il grande, che aveva, quando aveva 4 anni, che insomma, ho cercato di raccontarglielo come se fosse un supereroe che combatteva i cattivi, per quanto in realtà diciamo, la definizione di eroe non ci piace, però insomma per farglielo capire ho un attimo utilizzato questi termini e spero che loro sviluppino anche questa percezione dell'importanza della memoria che parte da 44 anni fa e arriva fino a oggi, ovviamente lasciandoli assolutamente liberi, come è stato per me, di intraprendere o meno poi un proprio personale impegno. A proposito di impegno, le posso chiedere di parlarci un po' della Casa Memoria? Allora, Casa Memoria è oggi, mi piace definirla, l'eredità morale che ci ha lasciato Felicia, mia nonna. Poi casualmente il direttivo di Casa Memoria è formato da sole donne, per cui sembra rafforzare in qualche modo questa realtà. Si occupa principalmente, quindi ha un po' due anime. Casa Memoria è la sede della nostra associazione ed è anche la casa fisica dove ha vissuto Pessino, dove ha vissuto Felicia, in cui lei ha accolto migliaia di persone a cui ha raccontato la storia di Pessino, ed è quello che facciamo noi. È un luogo simbolo della cultura antimafia in cui si tenta di costruire una cultura, una coscienza antimafia a partire dalla nostra testimonianza, quindi accogliamo le persone che vengono a incontrarci. Però, come dicevo, è anche la sede della nostra associazione, quindi da lì poi partono anche tutta una serie di iniziative che svolgiamo sul territorio, ma anche in realtà fuori dalla Sicilia, perché devo dire che Casa Memoria ha una bellissima rete su tutto il territorio nazionale e si mette al centro i temi, come dicevo, cari a Pessino, dall'impegno sociale, culturale, ambientalista, insomma, cercando di essere in qualche modo coerenti anche con queste idee. Volevo concludere questa intervista con un esercizio difficile, anche un po' scivoloso, quindi lo prendiamo con prudenza, ma in base all'immagine che abbiamo, l'immagine che si è fatta di Pepino Impastato, del mondo di oggi, cosa direbbe? Di cosa sarebbe preoccupato, ecco, fosse un trentenne catapultato nel mondo d'oggi? Ma guarda, questa è una domanda molto difficile, perché penso che nessuno oggi si potrebbe prendere, la responsabilità di affermare cosa Pessino direbbe, cosa Pessino farebbe, anche perché, come dicevo, dobbiamo ricordarci che Pessino era un giovane ragazzo di 30 anni a cui è stata interrotta la propria giovinezza, con quella spirito, con quel fervore tipico anche della gioventù. Però Pessino credeva veramente fortemente alle sue idee e quindi sulla base di quelle idee oggi non potremmo dire cosa direbbe e cosa farebbe, ma senza dubbio o comunque naturalmente ci verrebbe da pensare da che parte sarebbe Pessino, sicuramente sarebbe dalla parte dei lavoratori sfruttati, sicuramente sarebbe dalla parte di chi si impegna per contro il cambiamento climatico, comunque per chi difende il territorio, sarebbe dalla parte dei diritti umani, dalla parte di chi si impegna concretamente con pratiche di solidarietà, sarebbe dalla parte di chi pensa che la pace sia l'unica scelta perseguibile. sarebbe dalla parte della non violenza, sarebbe dalla parte dell'antimafia, un'antimafia sociale però che appunto si, come dire, legata o comunque che possa proporre, che proponga anche pratiche di mutamento e non solamente come dire, legate al ricordo fine a se stesso. Grazie mille Luisa Impastato. Grazie a voi.